Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Un Last Minute che ci porta in mostra con una continuità già dalla presentazione che abbiamo tenuto ieri con l'esposizione a Ca' Foscari. Uno sguardo a Oriente, in questo caso dalla nostra città, dal settore musei civici di Bologna, musei civici d'arte antica. Una Bologna veramente in movimento per quanto riguarda gli aspetti espositivi e di scambio culturale con l'arte e la cultura. Sarà già da questa sera con l'inaugurazione nella sala dei lapidari al Museo Civico Medievale, questa conoscenza e libertà, l'arte islamica al Museo Civico Medievale di Bologna. La curatela è di Anna Contadini, sarà poi in esposizione fino al 15 settembre 2024. Le collaborazioni sono diverse, le andremo anche a presentare nel corso della conversazione che ho avuto con la possibilità di presentazione alla stampa tenutasi ieri all'interno del Museo Medievale per dare un approfondimento a un'esposizione che, come ho detto, oltre che dare un'estetica dà anche un importante motivo di confronto. 38 manufatti esposti, metalli, ceramiche, maioliche, vetri e manoscritti. L'ampia fascia geografica comprende Iraq, Iran, Turchia, Siria, Egitto e Spagna dall'inizio del XIII secolo fino al XVIII secolo. Ecco, tutte le dinastie, tutti gli aspetti di arte, metalli ageminati, tecniche che tra l'altro avevano dei percorsi molto importanti per le zone protagoniste. Un'esposizione, come ho detto, che è valore aggiunto per la conoscenza, già del resto il titolo dà motivo di approfondimento per quello che ho appena presentato, conoscenza e libertà. E intanto che aspettiamo, per così dire, l'inizio della conversazione con la curatrice Anna Contadini, ho portato una playlist a tema. Lui è un musicista che io adoro, Rabih Abu Khalil, è un musicista che porta sonorità all'oud e appunto da intersezione con altri musicisti che ben conosciamo, tra l'altro Michel Godard è presente in questo disco. Ascoltiamo un po' di musica, poi addentriamoci all'interno di questi affascinanti percorsi, non solo di bellezza estetica, ma anche con motivo dialogico tra le culture e le epoche. Quando tenho vontade de me refugiar naquela onda que o céu quer ocultar na sombra dos teus seios, é que eu vou descobrindo que o mal dos meus anseios é que ao ver-te vou indo sem me recordar de tudo aquilo que nunca vou deixar. Bocas, beijos e ais, a dor que traduzi nos restos imortais que eu compreendi ao estar dentro de ti. Teu suor passeia sobre o meu peito liso, presinto a maré cheia que chega sem aviso para inundar a tua alma. Si tratta di mettere in mostra degli oggetti di arte islamica del Museo Civico Medievale, che ha una collezione molto prestigiosa frutto di mirati collezionismi, che è abbastanza conosciuta però è stata sempre poco studiata, e quindi vale la pena metterle in rilievo. La mostra però non è organizzata per temi tipo tipologie o cronologie o ornamenti, ma è tematica, e sono gli oggetti a parlare, a raccontare le loro storie. Quindi abbiamo un percorso che, se vogliamo, in maniera assolutamente libero, che è molto narrativo, e soprattutto per quanto riguarda le epoche, a che arco di tempo ci rivolgiamo? Allora, gli oggetti sono in un arco di tempo straordinario, perché vanno dall'inizio del XIII secolo, soprattutto Iran occidentale e Iraq. Poi coinvolgono l'Anatolia, la Siria, l'Egitto, il Nord Africa e la Spagna, e arrivano fino al XVIII secolo. Gli artisti, appunto, di quella direzione si occupavano di una particolarità nell'esprimere la propria creatività, che avesse anche un aspetto funzionale, concreto. Sì, gli oggetti sono anche funzionali, concreti, però sono anche oggetti preziosi, quindi prodotti per le corti o prodotti per delle persone speciali, che potevano essere sia visir alle corti dei sultani, però potevano essere anche delle persone che si potevano permettere quell'oggetto particolarmente prezioso alla gemina, per esempio un metallo alla gemina d'argento, un metallo alla gemina d'oro. Quindi questi oggetti venivano prodotti per un mercato ampio, non solo per un mercato principesco. Sonora, e questo assolo che stiamo ascoltando per una ritmica alla tuba, al basso tuba, Michel Godard insieme a Rabia Boukhalil al-Oud, e una formazione estesa di musicisti per dare colonna sonora all'esposizione che stiamo presentando praticamente al momento dell'apertura. Museo Civico Medievale, lo spazio dei lapidari. Molto interessanti anche i testi di scienza, di medicina, di filosofia, scritti originariamente in greco da importanti autori come Aristotele, Galeno, che furono tradotti poi in siriaco, poi in arabo. Insomma, le intersezioni con lo sguardo d'Oriente, anche con un percorso, come ho detto, pregevole e prezioso per l'arte, che dà un'importanza non solo all'estetica ma anche a un aspetto concreto, un'arte che poi è stata interpretata in maniera diversa rispetto alle consuetudini occidentali, come abbiamo sentito in questa prima parte di conversazione. Comunque, per saperne di più, una serie di incontri già da questa sera, che è l'apertura ufficiale. Apertura ufficiale venerdì 19 aprile alle 17.30, domani sabato 20 aprile alle ore 10.30 sarà la prima visita guidata alla scoperta di parte della collezione di arte islamica del Museo Medievale, e si partecipa con il biglietto del museo, non serve prenotare, ed è una visita che indubbiamente consiglio anche per dare questa commistione culturale e per avere l'immagine, anche se con un percorso, come ho detto, assolutamente libero, che dà la possibilità di concentrarsi su determinati aspetti e determinate sensazioni. Appunto, sulla realtà materica ne abbiamo parlato in questa seconda parte di conversazione con la curatrice Anna Contadini. Abbiamo metalli che sono acciminati in argento e in oro, hanno iscrizioni e anche figure di passatempi tipo la caccia, oppure musici, oppure cavalli, insomma motivi di animali. E ci sono alcuni di questi metalli che hanno dei nomi cui sono stati fatti, e questi nomi ci rivelano un po' la biografia del, cioè aggiungono alle notizie sulla biografia dell'oggetto. Poi abbiamo le ceramiche meravigliose, che sono ceramiche di Snick, l'antica Smirne, nella produzione più alta della ceramica turca ottomana di questo periodo, e ceramiche spagnole a lustro, cioè con una tecnica che deriva da una tecnica irachena del IX secolo, che poi si espande fino alla Spagna, si espande fino all'Italia. L'Italia dal mondo islamico imparerà questa tecnica e farà delle meravigliose maioliche lustrate. Quindi anche questo è un esempio di intersezione, sì, tra l'altro. Sì. In conclusione, chi era l'artista? Un identikit, un artista? Allora, si sa ben poco degli artisti, perché gli artisti raramente firmavano i loro pezzi, perché c'era questa idea che l'artista era un meraviglioso creatore di meravigliosi pezzi, ma era, si dice in inglese, humble, modesto, non si metteva in primo piano. Però abbiamo notizie di scuole, di famiglie che per esempio erano bravissimi o erano specializzati nella gemmina dei metalli e che venivano chiamati in altri posti, cioè se erano nascono a Mosul in Iraq, però poi si spostano in Siria a Damasco, si spostano al Cairo in Egitto. Abbiamo queste notizie di famiglie piuttosto che di nomi specifici. Certo. Un'ultima domanda: la gemina del metallo ci può dire qualcosa di più? La gemina del metallo nasce per creare un contrasto decorativo sulla superficie di un metallo che di solito è ottone. E ci si inserisce poi l'argento o l'oro. Quante opere in mostra? 38 opere, quindi non è una mostra molto grande, ma preziosissime. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. Sì, come ho detto, è una mostra che dà la possibilità di concentrarsi, piuttosto che un aspetto dispersivo. È molto importante avere quella concentrazione anche per conoscere le modalità diverse. Avete sentito, no? Come l'artista considerato in maniera totalmente opposta, probabilmente. Importanti però le scuole di percorso per questa esposizione, che arriva da tutti i tempi, si può dire, nel corso dei secoli, e dà un valore aggiunto al già pregevole Museo Civico Medievale della nostra città. Ringrazio Anna Contadini, con la quale ribadisco il motivo di incontro sarà domani per la prima visita guidata alla scoperta della collezione di arte islamica. Sarà alle ore 10:30 per la giornata di sabato 20 aprile. Grazie a chi dà direzione ai musei civici della nostra città, Eva degli Innocenti, sempre al lavoro per portare queste iniziative, e quindi benvengano i motivi di queste proposte. Ringrazio, come ho già detto in precedenza, l'organizzazione e le collaborazioni che sono state diverse, dal Museo di Palazzo Poggi al Sistema Museale di Ateneo, l'Università di Bologna, Dipartimento di Storia e Culture e Civiltà. Quindi un comitato scientifico che è composto da Mark Gregory D'Apuzzo, Silvia Battistini, Giancarlo Benevolo, ne sto dimenticando qualcuno e li sto portando un po' così velocemente per questa perla, visto che stiamo parlando d'Oriente, quella che è l'esposizione che porterà, oltre che quello che ho già presentato insieme ad Anna Contadini, anche una bellezza che può essere di conoscenza e libertà, anzi lo è assolutamente. Breve pubblicità e poi in scena.